¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Il raggio più breve che illumina animale, foglia che non riesce a trattenere il sole su di sé. Lei discenderà insieme a lui in un arco inscindibile al tramonto. La lo raggiunge, rimane, si salda lui, canto del sole inesauribile, inesauribile. Canto del sole Oh, you are beautiful in the sun. you, it was not mine to give. Quest'amore ha spiegato ogni cosa, quest'amore è tutto per me. Per questo ammiro l'amore, ovunque esso sia, e quando si posa in me. Ricorda un'onda tranquilla, scopre luce negli abissi, spande il suo chiamore in me. Quest'amore ha spiegato ogni cosa, quest'amore è tutto per me, per questo ammiro l'amore, ovunque esso sia, e quando si posa in me. Ricorda un'onda tranquilla, scopre luce negli abissi, spande il suo chiamore. Perciò in quel silenzio io non mi curo dei giorni passati. L'amore m'ha spiegato, l'amore risolve tutto per me. E poi che son distesa aperta al flusso, silenzioso, ricorda un'onda tranquilla, scopre luce negli abissi, spande il suo fiatore su di me. Una volta avvicinai l'orecchio alla terra, in fondo dove poi si spandono suoni, si spandono suoni sulle tue corde sonanti e cadono nell'anima fremente e si diffondono lontano. Sono natura, sono una parte di te. Sto nel tuo accordo ispirato, anima nell'anima. Non fermerai le correnti che passano. L'arpa vibrante, con le tue note mi conduci ovunque. Fai risuonare con il liuto il canto dell'anima mia, con musica melodia, tu onnipotente armonia. Bueno el sonido, es Radio Acupé con la mejor música para usted. This nearness, which you like. but immensely as a fire, like the violence of a vast rhythm. What will I give you for this love? Love you placed in a child's soul that could never be on their mind by the presence of sadness. How will I thank the sea? How will I thank the sea? Quiet ways find my daily struggles. How will I thank the sun? For not letting that no day deprives me from. How can you love trusting one as me? Trusting one as me. How will I thank the sea? How will I thank the sea? Quiet ways find my daily struggles. Quien lo ha sulla sorte del mondo non sono io che incomincio le guerre, sono con te o contro di te, non lo so, non te questo mi tormenta, torni scoviti che non fanno male mai, preparo dei frammenti, in sterminio non uccido l'uomo mai. Potrei creare un altro mondo io stesso, come ogni uomo potrei essere causa, dove nessuno lo distrugge Donati, me lo delude con parole ingannate. Sorprenderà conservarla. No dejes de luchar, es como alzar el vuelo y no parar jamás. Y si no lo haces así, la perderás. La libertad no se compra, la pagarás con el alma. Radio Acupé, con música fácil de escuchar. Stare qui davanti a te, guardare con questi occhi miei, in cui convergono le stellari vie. Occhi ignari di colui che silenzioso regna in voi, base dalle stelle, luce sconfinata prenderà. Penso al giorno che così pieno sarà di stupore per la tua semplicità, che tiene in pugno il mondo e adesso durerà fino a cui vivrà e al di là. Davanti al tremulo bagliore, meno io saprò, di più crederò. Fammi aprire gli occhi chiusi e che tu possa volgere.

each of you are loved by one and all. In kindness and in love, may happiness be yours, while understood by all. Yet we must all realize, though often for a while, that in our hearts we feel a void that we must fill. That in our hearts we feel a void that we must fill. When they mejor música para usted. La tua bianca tomba da anni chiusa ormai, sbocciano fiori bianchi di vita. Madre o amore mio spento, da me tuo figlio avrai. Una preghiera, un canto, l'amore che vivrà. qualcosa si solleva inesplicabile. Come la morte, come una preghiera, che dona dell'eterno riposo di silenzio, per buona aria, quanti anni sono già spariti senza te. Spento, dame tuo figlio avrai, una preghiera, un canto, l'amore che vivrà. Senza te per sempre, está lleno de fuerzas ocultas que con valor denunció y nombró. Mis palabras no son banales, las sigue un fuerte vigor, mas no pasan veloces como en agua. Sobre las piedras del monte, mi reflexión, formada por varias corrientes, mi reflexión, más que por la multitud de gotas iguales. Haz lo que todavía recordará la noche sin estrellas. No se ocultan de los ojos como los árboles. Hay que mirar. tirarla sporratos al igual. Al igual que un insecto detrás de un cristal. Mi reflexión, formada por varias corrientes, mi reflexión, más que por la multitud de gotas iguales. Mi reflexión, formada por varias corrientes. Mi reflexión, más que por la multitud de gotas iguales. Oh!